Runtime Radio presenta Ich bin ein Violino. De Lenda Cartago. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Un programma di storia e cultura a cura di Roberto Tomaiuolo. Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla Zuava. Tornando a casa troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Prodotto da Simone Pizzi. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. I have directed that the following initial steps be taken immediately. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace and the stable relations between our two nations. Oggi rievochiamo un avvenimento degli anni 60 che ha per protagonisti John Fitzgerald Kennedy, Fidel Castro e Nikita Khrushchev. Questo episodio si inserisce in quella che è stata considerata la Guerra Fredda, che fu una lotta politica tra il mondo occidentale, rappresentato dagli Stati Uniti e dagli alleati della NATO, ed il blocco orientale, capeggiato dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ed i suoi alleati. Più o meno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, infatti, dal 1945 fino almeno al 1991, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica hanno gareggiato l'uno contro l'altro per dimostrare la superiorità del sistema politico-economico di ciascuno, democrazia e capitalismo contro autoritarismo e comunismo. Tuttavia hanno gareggiato attraverso conflitti per procura, sia politici, sostenendo i partiti democratici o comunisti, economici, fornendo aiuti allo sviluppo, o militari, sostenendo le forze opposte nel Terzo Mondo. Inizialmente le superpotenze si concentrarono sull'Europa del secondo dopoguerra, mentre cercavano di conquistare gli stati al loro fianco. Mentre la Guerra Fredda progrediva e le linee di divisione in Europa si consolidavano, le superpotenze si concentrarono sempre di più sul mondo in via di sviluppo, in Sud America, in Asia e in Africa, e sull'isola di Cuba, da poco protagonista della rivoluzione che rovesciò il dittatore Fulgencio Batista. Oggi parleremo, in particolare, di 13 giorni del 1962 che avrebbero potuto causare la fine del mondo come lo conosciamo oggi, a causa di un conflitto nucleare. Tale catastrofe è stata molto più vicina di quanto si sia soliti pensare e raccontare, e molti passaggi cruciali hanno rischiato di rappresentare un punto di non ritorno, spesso nelle mani di singoli funzionari o militari in entrambi i campi. JFK trasformerà la più grande crisi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale nel più clamoroso successo della sua amministrazione, che per la verità non aveva particolarmente brillato sino a quel momento. O almeno, questo è quello che è stato raccontato per molti anni. Ma, forse, le cose non andarono proprio così. E come spesso accade, la storia è molto più complessa. Veniamo al 16 ottobre 1962. Alle ore 8:45 il consigliere per la sicurezza nazionale George Bundy avvertì il presidente Kennedy che una grande crisi internazionale era alle porte. Due giorni prima, infatti, un aereo di sorveglianza militare U-2 degli Stati Uniti aveva scattato centinaia di fotografie aeree su Cuba. Gli analisti della CIA avevano decifrato nelle immagini la prova definitiva che una base missilistica nucleare sovietica era in costruzione vicino a San Cristobal, a solo 90 miglia di distanza dalla costa americana. Lo scontro di gran lunga più pericoloso della Guerra Fredda fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica stava per cominciare. Iniziano così i 13 giorni che segnano il periodo più pericoloso della crisi dei missili cubani e probabilmente del nostro pianeta di sempre. Il presidente Kennedy e i principali funzionari della politica estera e della difesa nazionale americani vengono informati di quanto scoperto dall'U2. Iniziano le discussioni su come rispondere a questa minaccia. Da principio vennero considerate solo due alternative: un attacco aereo e l'invasione, o una quarantena navale con minaccia di ulteriori azioni militari. La risposta solo diplomatica venne scartata immediatamente come troppo debole. Per evitare di suscitare preoccupazione nell'opinione pubblica, il presidente Kennedy mantenne invariato il suo programma ufficiale, incontrandosi periodicamente con i consiglieri per discutere lo stato degli eventi a Cuba e le possibili strategie per uscirne. 17 ottobre 1962. Le unità militari americane iniziano a spostarsi nelle basi del sud-est degli Stati Uniti. Il presidente Kennedy, intanto, continua con la sua agenda normale come se nulla fosse, in attesa di decidere una linea di azione e per non spargere il panico. Partecipa infatti ad una breve funzione religiosa, successivamente pranza con il principe ereditario Hassan di Libia, poi fa una visita politica nel Connecticut a sostegno dei candidati democratici al Congresso. 18 ottobre. Il presidente Kennedy riceve la visita del ministro degli esteri sovietico Andrei Gromyko, che afferma che l'aiuto sovietico a Cuba è puramente difensivo e non rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti. Kennedy, senza rilevare ciò che sa dell'esistenza dei missili, si limita a leggere a Gromyko il suo avvertimento pubblico del 4 settembre, dove diceva che gravissime conseguenze sarebbero seguite se fossero state introdotte a Cuba armi offensive sovietiche, chiaro riferimento appunto ai missili nucleari. 19 ottobre 1962. Il presidente Kennedy parte per un viaggio programmato per la campagna elettorale del Congresso in Ohio e Illinois, quindi continua la sua agenda di nuovo come se nulla fosse, almeno per l'esterno. A Washington però i suoi consiglieri continuano intanto il dibattito sulla linea di azione necessaria e più appropriata. 20 ottobre 1962. Kennedy ritorna improvvisamente a Washington e dopo 5 ore di discussione con i suoi più stretti consiglieri decide sulla imposizione del blocco navale. I piani per il dispiegamento delle unità navali vengono elaborati e si inizia a lavorare su un discorso per avvisare il popolo americano. Va detto che il presidente e Robert Kennedy furono praticamente i soli e messi in minoranza per affermare questa linea di azione. I falchi erano in maggioranza. 21 ottobre 1962. Dopo aver partecipato alla messa nella chiesa di Santo Stefano con la moglie, il presidente incontra il generale Walter Sweeney del Tactical Air Command, che gli dice che un attacco aereo non può garantire la distruzione al 100% dei missili e quindi, in caso di invasione americana, è possibile che i missili cubani vengano effettivamente lanciati. 22 ottobre. Il presidente Kennedy telefona agli ex presidenti Hoover, Truman e Eisenhower per aggiornarli sulla situazione. Intanto continuano le riunioni per coordinare tutte le azioni. Kennedy istituisce formalmente il Comitato Esecutivo del Consiglio di Sicurezza Nazionale, che diventerà famoso sotto l'acronimo di EXCOM, e gli ordina di riunirsi quotidianamente durante la crisi. Kennedy informa il gabinetto e i leader del Congresso sulla situazione. Egli informerà anche il primo ministro britannico Macmillan, scriverà poi a Nikita Khrushchev, premier dell'Unione Sovietica, prima di rivolgersi al pubblico americano in diretta televisiva. Non ho dato per scontato che lei o qualsiasi altro uomo sano di mente possa, in questa era nucleare, far precipitare deliberatamente il mondo in una guerra, perché è chiarissimo che nessun paese potrebbe vincerla e che potrebbe solo avere conseguenze catastrofiche per tutto il mondo, compreso l'aggressore. Alle 19, John Fitzgerald Kennedy parla in televisione, rivelando al mondo le prove della presenza dei missili sovietici a Cuba e chiedendo la loro rimozione. Annuncia anche l'istituzione di un blocco navale intorno all'isola, finché l'Unione Sovietica non accetterà di smantellare i siti missilistici e di assicurarsi che nessun altro missile venga spedito a Cuba. Circa un'ora prima del discorso, il segretario di Stato Dan Rusk notifica formalmente all'ambasciatore sovietico Anatoly Dobrin il contenuto del discorso del presidente. 23 ottobre 1962. L'assistente segretario di Stato per gli affari interamericani Edwin Martin cerca una risoluzione di sostegno da parte dell'Organizzazione degli Stati Americani. L'ambasciatore alle Nazioni Unite Stevenson presenta la questione al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. le navi della flotta navale si posizionano intorno a Cuba per far rispettare la quarantena. I sottomarini sovietici minacciano di forzare il blocco navale spostandosi nella zona dei Caraibi. Le navi da carico sovietiche dirette a Cuba con forniture militari si fermano in acqua, ma la petroliera Bucarest continua la navigazione verso Cuba. La sera, Robert Kennedy incontra l'ambasciatore Dobrin all'ambasciata sovietica, cercando una soluzione. Robert Kennedy sarà una figura importante tanto quanto JFK in questa crisi. Dopo che l'Organizzazione degli Stati Americani ha approvato il blocco navale, il presidente Kennedy chiede a Khrushchev di fermare qualsiasi nave russa diretta a Cuba. La più grande preoccupazione del presidente americano è che una nave della sua marina potrebbe essere altrimenti costretta a sparare su una nave russa, potenzialmente scatenando un'escalation ed una guerra fra le superpotenze. Il presidente Khrushchev risponde indignato alla lettera del presidente Kennedy, affermando tra l'altro: «Lei, signor presidente, non sta dichiarando una quarantena, ma piuttosto sta ponendo un ultimatum e minaccia che se non cediamo alle sue richieste lei userà la forza. Consideri quello che sta dicendo e volete convincermi ad acconsentire a questo? Cosa significherebbe accettare queste richieste? Significherebbe guidare se stessi nelle relazioni con gli altri paesi, non con la ragione, ma sottomettendosi all'arbitrio. Voi non vi appellate più alla ragione, ma volete intimidirci». Sapendo che alcuni missili a Cuba erano ormai operativi, il presidente americano redige personalmente una lettera al premier Khrushchev, esortandolo nuovamente a cambiare il corso degli eventi. Nel frattempo, le navi da carico sovietiche girano su se stesse e tornano verso l'Europa. La Bucarest, che trasporta solo prodotti petroliferi, è autorizzata a passare la linea di quarantena. Il segretario generale dell'ONU chiede un periodo di raffreddamento, che viene rifiutato da Kennedy perché lascerebbe i missili sul posto e consoliderebbe lo status quo. Durante il dibattito nel Consiglio di sicurezza, il normalmente cortese ambasciatore americano Adlai Stevenson affrontò aggressivamente il suo omologo sovietico alle Nazioni Unite, Valerian Zorin, con prove fotografiche dei missili a Cuba. All right, sir. Let me ask you one simple question. Do you, Ambassador Zorin, deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no? Don't wait for the translation, yes or no? 24 ottobre 1962. Una nave da carico sovietica viene fermata sulla linea di quarantena e perquisita alla ricerca di forniture militari di contrabbando. Non ne viene trovata nessuna e la nave è autorizzata a procedere verso Cuba. Intanto, ulteriori prove fotografiche mostrano la costruzione accelerata dei siti missilistici e la presenza dei bombardieri sovietici, i Liushin 28, nei campi d'aviazione cubani. John Scali, reporter della ABC News, viene avvicinato da Alexander Fomin, dello staff dell'ambasciata sovietica, con una proposta di soluzione della crisi. È evidente che l'Unione Sovietica vuole comunicare che è disponibile a trattare. Più tardi, una lunga lettera di Khrushchev a Kennedy fa un'offerta simile. Rimozione dei missili in cambio della rimozione della quarantena e dell'impegno che gli Stati Uniti non invaderanno Cuba. Una seconda lettera da Mosca, che richiede condizioni più dure, compresa la rimozione dei missili Jupiter obsoleti dalla Turchia, viene ricevuta a Washington. Intanto però, nei cieli cubani, un aereo americano U-2 viene abbattuto da un missile terra-aria fornito dai sovietici e il pilota, il maggiore Rudolf Anderson, viene ucciso. Si verrà poi a sapere che Khrushchev non aveva autorizzato la contraerea ad essere utilizzata contro gli aerei americani, ma il vicecomandante sovietico a Cuba agì di propria iniziativa. Fidel Castro a quel punto si era convinto che gli Stati Uniti avrebbero lanciato un'invasione e quindi chiese esplicitamente in una lettera a Nikita Khrushchev consegnata all'ambasciata sovietica a Cuba di attaccare per primo, aggiungendo che Cuba sarebbe stata disposta a sacrificarsi, visto che sarebbe stata letteralmente cancellata dal mondo. Tutto ciò per la vittoria del comunismo. In questa fase storica emerge ancora il profondissimo astio di Fidel Castro verso gli Stati Uniti, che è stato importantissimo nella storia cubana e mondiale. Ricordiamo che Fidel non si era mai detto comunista. Anche nei primissimi tempi dopo la rivoluzione, addirittura fece dei tour negli Stati Uniti appena dopo la rivoluzione, come pure la maggioranza dei movimenti rivoluzionari e dei partecipanti a tali movimenti rivoluzionari. Questo al contrario di suo fratello Raul e del Che Guevara, che invece erano marxisti. Ma approfondiremo questi temi in un'altra puntata. Il presidente Kennedy scrive una lettera alla vedova del maggiore Rudolf Anderson, porgendole le sue condoglianze informandola che gli è stata conferita postuma la Distinguished Service Medal. Intanto, in una tesa riunione del comitato esecutivo, Kennedy resiste alle pressioni per una immediata azione militare contro i siti antiaerei dell'isola cubana responsabili dell'abbattimento dell'aerospia americano. In diversi punti della discussione, Kennedy comprende che la rimozione dei missili americani in Turchia dovrà essere parte di un accordo globale negoziato perché questo abbia successo. Alla fine, il comitato decide di ignorare la lettera di sabato da Mosca e rispondere favorevolmente al più conciliante messaggio mandato venerdì. Però, squadrigli di trasporto truppe della US Air Force vengono comunque richiamate al servizio attivo, in caso sia necessaria un'invasione. Più tardi, quella notte, Robert Kennedy incontrò segretamente l'ambasciatore Anatoly Dobrin. Essi raggiunsero un'intesa di base. L'Unione Sovietica avrebbe ritirato i missili da Cuba sotto la supervisione delle Nazioni Unite in cambio di un impegno americano a non invadere l'isola. In un ulteriore accordo, che però sarebbe rimasto segreto, gli Stati Uniti accettarono di rimuovere i missili Jupiter dalla Turchia. Su questo punto aggiungiamo una cosa di cui non si parla quasi mai ancora oggi, cioè del fatto che oltre alla rimozione dei missili Jupiter dalla Turchia, si promise anche la rimozione dei missili Jupiter in Puglia, nelle Murge. L'amministrazione USA non svelò mai apertamente questo ulteriore accordo. Il governo Fanfani finse di non conoscerlo, pur essendone ovviamente a conoscenza, accettando in seguito la rimozione dei missili come un semplice aggiornamento di materiale bellico vetusto. Va ricordato che dal punto di vista strategico, la presenza dei missili e la necessaria autorizzazione congiunta per il loro utilizzo metteva di diritto l'Italia in un circolo ristretto di nazioni importanti a cui non avrebbe avuto altrimenti accesso. Taluni ritennero che il comportamento italiano abbia favorito in modo determinante la non opposizione di Kennedy al centro-sinistra ed in particolare all'alleanza fra Democrazia Cristiana e Partito Socialista Italiano. Radio Mosca annuncerà, dopo una vera corsa contro il tempo per rispettare l'ultimatum americano, dove il comunicato stilato venne portato per le strade di Mosca di corsa e l'emissario del Cremlino, che rimarrà bloccato nell'ascensore del Palazzo della Radio e che dovrà passare la dichiarazione da leggere attraverso una grata, che l'Unione Sovietica ha accettato la soluzione proposta e rilascia il testo di una lettera di Khrushchev che afferma che i missili saranno rimossi in cambio di impegno di non invadere Cuba da parte degli Stati Uniti. This is Radio Moscow. Premier Khrushchev has sent a message to President Kennedy today. The Soviet government has ordered the dismantling of weapons in Cuba, as well as their crating and return to the Soviet Union. Finiscono così i 13 giorni che segnarono il periodo più pericoloso della crisi dei missili di Cuba. Analizziamo adesso velocemente alcuni aspetti di geopolitica. Perché l'Unione Sovietica ha piazzato i missili a Cuba, non potendo non immaginare la reazione degli Stati Uniti? Vi sono due motivi principali. Il primo, per aumentare il proprio potere, minacciando gli Stati Uniti con un attacco nucleare dai Caraibi. Il secondo, per rafforzare la posizione negoziale dell'Unione Sovietica nei suoi tentativi di forzare Berlino Ovest ad unirsi alla Germania Est. Khrushchev pensava che Washington avrebbe potuto scambiare la rimozione dei missili sovietici da Cuba con il ritiro della NATO da Berlino Ovest. Altre ragioni includevano la difesa di Cuba dall'invasione americana e il rafforzamento del prestigio sovietico. Perché poi i sovietici accettarono di ritirare i missili? Le ragioni per cui Khrushchev ritirò i missili da Cuba sono ancora un po' incerte, per la verità. Gli studiosi a maggioranza concludono che due fattori principali erano in gioco nella decisione sovietica. Il primo era che Khrushchev sapeva che la guerra per Cuba avrebbe potuto rapidamente degenerare in una guerra nucleare, che avrebbe distrutto entrambe le due superpotenze. Il secondo è che il governo sovietico ottenne ciò che Khrushchev comunque considerò delle concessioni significative da parte degli Stati Uniti, l'impegno a non invadere Cuba e a rimuovere i missili americani dalla Turchia. E come abbiamo visto, anche dall'Italia. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda, la mucca non dà latte, Giacomone bacia Maometto, le scarpe mi stanno strette, il pappagallo è rosso, l'aquila vola. Parla Londra, abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.